Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 marzo, il sole in regione è sorto alle 6.56 e tramonterà alle 19.30, potenza dell'ora legale. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Rita Micoli. Non basta un trattore, le macchine agricole sono tecnologiche, i droni ormai sorvolano le vigne. Per comandare il tutto servono figure specializzate, le formerà il Malignani di Udine. Corsivo dedicato alla virtuosa lenticchia coltivata in tempi remotissimi in Friuli e oggi alla ricerca di nuovi spazi. Nella rubrica delle normative, la nuova piattaforma Agrix che guida le imprese nelle decisioni operative. Poi il nocciolo, coltura piuttosto redditizia e richiesta per la trasformazione, mentre la mediterranea, ma per noi ancora esotica ocra, è la protagonista della tesi di laurea in agraria che oggi ci presenta la sua autrice. Poi le buone pratiche che riducono gli effetti che lo spreco di cibo ha sul nostro clima, andamento dei mercati, previsioni meteo per la settimana e proverbio friulano chiudono la puntata. Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali è la nuovissima proposta di MITS, l'Istituto Tecnico Superiore del Malignani di Udine. Canale formativo parallelo ai percorsi universitari in aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese. Ci racconta chi saranno questi agrotech specialist Diletta Covre di Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy. È un percorso che mira a formare tecnici multicompetenti dalla meccatronica all'automazione applicata all'agricoltura. Le aziende sempre di più ci chiedono tecnici che siano in grado di intervenire, di saper usare le macchine e le tecnologie in agricoltura che sono sempre più complesse e sempre più avanzate. E durante l'ampia parte di stage gli allievi potranno sperimentare direttamente sul campo tutte le nuove tecnologie imparate durante il corso. Con che competenze usciranno dal Malignani? Sono competenze che vanno a guardare le nuove tecnologie che vengono applicate all'agricoltura e che troveranno sempre più spazio nel prossimo futuro. Non solo le macchine in campo quindi, ma anche tecnologie innovative per l'agricoltura di precisione? Sì, certo, ci saranno spazi dedicati a laboratori per gli strumenti per la raccolta dei dati, a supporto delle decisioni, l'utilizzo dei droni, ad esempio, o sistemi GIS di telerilevamento. Vitivinicolo, settore di eccellenza del Friuli Venezia Giulia, come si potranno applicare in vigna le conoscenze e le tecnologie degli specialisti dell'agrotech, pensiamo appunto ai droni prima di tutto? Potranno essere usate in diverse fasi del processo produttivo, dall'irrigazione, la concimazione, all'utilizzo di trattori specializzati per i terreni un po' più particolari come quelli collinari o l'utilizzo di macchine innovative, vendemmiatrici, atomizzatori e fino ad arrivare anche all'utilizzo delle macchine etichettatrici, ad esempio. Perché MITS ha deciso di puntare sull'agricoltura? Il MITS guarda lo sviluppo dell'innovazione dei settori produttivi strategici dell'economia della regione del Friuli Venezia Giulia, non solo del comparto meccatronico manufatturiero. E per questo la crescita del 4.0 in tutti i settori strategici può portare ad una crescita dell'economia regionale e a un ampliamento delle opportunità di lavoro di qualità per i giovani. Diletta Covre, sostenibilità dell'agroalimentare, la chiede la programmazione europea, ma anche i consumatori. Che ruolo possono avere queste figure di specialisti dell'agrotech proprio in questo campo che continua ad evolversi sempre di più? L'attenzione a una gestione agroecologica del vigneto ha sicuramente ricadute di tipo ambientale, economico e anche sulla salute di tutti noi, come ad esempio nella gestione delle acque, del ciclo completo, nella difesa fitosanitaria del vigneto e delle piante. E da un punto di vista della formazione formazione, e la formazione stessa diventa quindi un valido aiuto per conoscere tutte le tecniche, le tecnologie che possono portare a una gestione del campo sempre più agroecologica, sostenibile e di qualità. Parliamo comunque, lei ha detto prima, anche di macchine per la trasformazione fino all'etichettatura. Sì, certo, si possono utilizzare macchine che vanno a toccare completo il processo produttivo, per cui si va dalle macchine che si usano in campo alle macchine poi che si usano in cantina. Con che tipo di aziende sono già stati stretti o sono in corso degli accordi per gli stage di questi specialisti dell'agrotech, che sono la parte più importante alla fine della formazione? Ecco, numerose aziende, dai Colli Orientali al Collio, al Pordenonese, sia del settore vitivinicolo, ma non solo, ci hanno segnalato queste esigenze e stanno già lavorando insieme a noi nella fase di progettazione dell'azione formativa e ci accompagneranno durante tutto il percorso e anche nell'ospitare gli allievi in stage. Altro che carne sintetica, torniamo alle lenticchie e l'esortazione di Enos Costantini, che ci racconta di questo legume anticamente coltivato in Friuli e che meriterebbe di ritrovare il suo posto nei nostri campi. L'agricoltura non è nata solo col farro monococco, il farro di cocco e l'orzo. Una delle primissime piante coltivate è stata la lenticchia, e prima di coltivarla nella mezzaluna fertile, l'uomo si nutriva di quelle selvatiche, come ampiamente documentato dall'archeologia. Nell'immaginario friulano la lenticchia appartiene all'agricoltura e alla cucina dell'Italia centro-meridionale. Niente di più sbagliato, però. La lenticchia è stata coltivata in Friuli probabilmente dal Neolitico fino a un secolo fa. Citiamo per esempio un documento gemonese del 400, «Solz cutuardis per una migina di lince», cioè 14 soldi per una mezzina, circa 20 litri di lenticchie. Sappiamo che vi erano più varietà e che potevano entrare anche nei quartesi dei pievani. Il nome friulano della lenticchia è il brevissimo lint, che viene direttamente dal latino accusativo lentem. I friulani, è noto, erano parchi in tutto, anche nelle vocali e nelle consonanti. Per una volta il maggior produttore non è la Cina, bensì il Canada, che produce una buona metà dei 6.300.000 tonnellate di lenticchie mondiali. Seconda viene l'India, ma gli indiani, che sono 1.400.000, se le mangiano tutte loro le lenticchie, mentre i canadesi, che sono meno di 40 milioni, le esportano. Fate attenzione però, voi comprate una confezione con un forte richiamo ai bei paesaggi centro-italiani, con trionfanti claim tricolori e poi, se guardate bene, ma proprio bene, trovate che vengono dal Canada. Le lenticchie, come i buoi, dovrebbero essere dei paesi tuoi, e non solo perché il glifosato canadese ci è indigesto. Noi auspichiamo, facciamo voti affinché le lenticchie tornino presto in Friuli, in piano come in colle, e come sta pur già avvenendo per il cece. Tempo addietro, un multimiliardario americano si fece paladino della carne sintetica, perché quella vera favorirebbe il cambiamento climatico. La carne sintetica se la mangi lui. Noi siamo sinceramente dispiaciuti di deluderlo. Le lenticchie ci aggradano di più e sono acerrime nemiche del riscaldamento globale, in quanto non vogliono, proprio detestano i concimi azotati che si fanno con il gas di Putin. La carne del futuro, del ricco come del povero, in vero deliziosa, ricca di fibre e di antiossidanti, vitamine, sali minerali, quali calcio, ferro e fosforo, potrà essere un piatto di proteiche lenticchie, di biblica memoria e con buona pace di Esaù. Assieme a Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, parliamo oggi di sistemi di supporto alle decisioni in agricoltura, in quanto proprio nella nostra regione ci sono interessanti novità. Sì, infatti dopo diversi mesi di lavoro l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale metterà a disposizione degli agricoltori e dei consulenti una piattaforma informatica denominata AGRIX, acronimo di Agricoltura, Conoscenza e Sviluppo, per guidare le imprese agricole in alcune importanti decisioni operative. Il sistema, realizzato con fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, è costituito da diverse applicazioni modellistiche e di simulazione, progettate con particolare attenzione al tema dei cambiamenti climatici, agli aspetti energetici e all'uso efficiente delle risorse e della tutela dell'ambiente. Come funziona Agrix? Ci sono modelli per la difesa fitosanitaria per alcune colture, per il mais diabrotica e piralide, per il melo, ticheolatura e carpocapsa, per la vite e per onospora, tignola, tignoletta e scafuideus. Ci sono modelli sull'ottimizzazione dell'irrigazione e della concimazione basati sui dati agrometeorologici della rete regionale OSMER e delle carte dei suoli realizzate da ERSA. Infine ci sono modelli per la valutazione delle scelte tecniche e gestionali in termini di sostenibilità sia ambientale che economica, che presuppongono in questo caso l'inserimento di tutta una serie di parametri specifici da parte dell'azienda, e questa è la parte più innovativa. Chi avrà accesso a questa piattaforma? In linea di principio è rivolta a tutti i potenziali beneficiari del PSR. Tuttavia, vista la complessità del sistema, l'accesso sarà consentito solo a coloro che seguiranno un'apposita formazione, anche questa gratuita, che si svolgerà attraverso una serie di videoconferenze dedicate a ciascuno dei modelli Agrix. ERSA ha previsto 4 possibili percorsi formativi: uno specifico per la vite, uno per il melo, uno per i seminativi e la zootecnia e uno completo per tutti gli indirizzi culturali. A seconda del percorso la durata varia da un minimo di 10 a un massimo di 21 ore. Attenzione, perché la formazione a distanza inizierà il prossimo 19 aprile per terminare il 22 giugno. Le iscrizioni, da effettuarsi all'interno del sito web www.ersa.fvg.it, sono già aperte e si chiuderanno il 6 aprile. Raffaele Testolini, esperto e già docente di frutticoltura, comincia in questa puntata a raccontarci del nocciolo, molto richiesto dall'industria dolciaria italiana. In regione se ne coltivano un centinaio di ettari, ma si potrebbe fare di più. C'è molto interesse per il nocciolo, in Friuli, in Italia, nel mondo. Le ragioni sono presto dette: manca prodotto in tutto il mondo. Inoltre, il primo produttore, la Turchia, produce nocciole di scarsa qualità e l'industria dolciaria cerca di meglio, cerca soprattutto le pregiate varietà italiane. 5 regioni italiane, Piemonte, Toscana, Lazio, Basilicata e Sicilia, si sono organizzate per mettere complessivamente a dimora 20.000 nuovi ettari di nocciolo nei prossimi anni. Le amministrazioni di queste regioni hanno previsto incentivi nei loro piani di sviluppo rurale. In Friuli, nonostante la scarsa attenzione dell'assessorato per questa coltura, sono già stati messi a dimora oltre 100 ettari e l'interesse degli agricoltori è elevato. La domanda di rito è, come sempre, nel caso delle nuove colture: conviene coltivare il nocciolo? Quanto rende? Sì, conviene perché è una coltura relativamente facile, richiede pochi investimenti e poca manodopera. Quanto rende? È bene dire subito che il nocciolo entra in produzione lentamente e solo al quinto anno è in piena produzione. Dal quinto anno in poi produce 2 tonnellate per ettaro, che al prezzo medio di 4 euro al chilogrammo corrispondono a 8.000 euro. Non sono cifre da far diventare ricchi, ma sempre meglio del mais. Nella prossima puntata qualche consiglio per chi vuol fare un impianto. La coltivazione dell'ocra è diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, tranne che in Italia, o quasi. Simile nell'aspetto a una piccolissima zucchina è la protagonista della tesi di Laura Misson, neolaureata in Scienze e Tecnologie Agrarie a Udine. Lo scopo della mia tesi era lo studio del comportamento vegeto-produttivo di alcune cultivar di ocra, sia in ambiente protetto sia in pieno campo, in una località della pianura friulana. Oltre, ovviamente, all'analisi degli effetti e condizioni meteoclimatiche sulla produttività potenziale. L'ocra è originaria dell'Africa tropicale, appartiene alla famiglia delle malvace e si è rivelata adatta anche al nostro clima. La mia tesi è iniziata con la semina avvenuta a maggio, I primi di giugno l'ocra è stata trapiantata sia in campo sia in tunnel freddo. Sono state studiate 7 cultivar con caratteristiche differenti l'una dall'altra, come per esempio la colorazione della capsula, il frutto che noi consumiamo. Il frutto viene consumato dopo la cottura ed ha un ampio utilizzo in cucina, visto il suo sapore molto simile a quello della zucchina. Gli studi hanno evidenziato che l'ocra si adatta bene alle condizioni climatiche. Infatti, esaminando l'indice di precocità, si è osservato che tutte le cultivar in ambiente protetto sono entrate prima in produzione e che tra l'ambiente protetto, quindi il tunnel freddo, e la produzione in pieno campo c'è stata un'anticipazione di ben 13 giorni, ma nonostante questo la produttività dell'ocra è stata al di sopra delle nostre aspettative sia in tunnel freddo che in campo. La cultivar che ha prodotto maggiormente è la Silver Queen, parliamo di quasi 2 kg per metro quadro in serra, mentre in campo di quasi 1,5 kg per metro quadro. Ma non solo ha prodotto di più, è stata anche quella più apprezzata dai consumatori, sia per quanto riguarda il suo gusto, sia per quanto riguarda il colore, un verde chiaro quasi tendente al bianco. A parer mio è davvero molto importante promuovere il consumo dell'ocra, sia per quanto riguarda le loro proprietà nutrizionali, sia per la sua semplicità nella coltivazione e anche nell'utilizzo. Inoltre, in questi anni avremo un aumento della domanda, visto che sempre di più l'Italia sta assumendo caratteristiche multiculturali e l'ocra viene già coltivato nel bacino del Mediterraneo. Quindi non parliamo solo di una coltivazione nuova, ma anche di una possibilità in più di introdurre nel nostro mercato un frutto facile da coltivare, sano per le sue proprietà, ma soprattutto buono e con un buon rendimento. Si parla di quasi 10-12 euro al chilo. Lo spreco alimentare ha effetti negativi sul clima, è stato ricordato nella precedente puntata di questa rubrica, ma ci sono anche pratiche virtuose che lo contrastano, ci dice Silvia Stefanelli. Continuiamo a parlare di agricoltura e cambiamento climatico, affrontando il tema dello spreco alimentare, una vera e propria piaga ambientale e causa di gravi disuguaglianze nel mondo. Studi recenti indicano lo spreco pro capite annuo in Europa tra i 55 e i 190 kg, di cui l'80% sarebbe edibile, con notevoli impatti su consumo di acqua, suolo, emissioni di gas serra e perdite di biodiversità. Se lo spreco alimentare fosse un paese, sarebbe il terzo emettitore mondiale di gas serra, dopo Cina e Stati Uniti. In Italia lo spreco vale lo 0,88% del PIL, o 15 miliardi di euro. E un individuo spreca 700 grammi di cibo ogni settimana. L'Italia, per fortuna, è anche uno dei paesi virtuosi nell'affrontare lo spreco alimentare e nello sperimentare soluzioni innovative, tra cui ricordiamo Last Minute Market, che affianca le aziende nella grande distribuzione e organizza il recupero delle eccedenze alimentari. Last Minute Market è attiva anche nella regione Friuli Venezia Giulia, dove ha coinvolto 32 aziende e ha favorito il recupero di 1200 tonnellate di alimenti. C'è poi l'iniziativa solidale Bring the Food, che facilita l'incontro tra ristoratori e piccole aziende alimentari con eccedenze da smaltire. La rete nazionale Banco Alimentare, che si occupa della raccolta delle eccedenze alimentari e della loro ridistribuzione a strutture caritative e svolge un'attività assistenziale verso le persone più indigenti. In Italia dal 2016 c'è la legge Gadda, o legge dell'antispreco, che ha proprio come scopo la riduzione degli sprechi durante tutto il ciclo alimentare ed ha consentito fino ad ora il recupero del 23% del cibo avanzato. Ci sono molte app, tra cui Too Good To Go, da poco sbarcate in Italia, e che consente di localizzare negozi e ristoranti con pasti e prodotti invenduti. Rimane il fatto che tutti noi siamo responsabili dello spreco alimentare e possiamo impegnarci ogni giorno con una spesa intelligente, non cadendo nelle trappole delle offerte da scaffale, comprare quello che serve, organizzare il frigorifero, acquistare e consumare i prodotti vicino alla scadenza e valorizzare cibo e ingredienti tentati di buttare. Con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato debole con prezzi cedenti. Eccetto la soia, venerdì scorso nelle contrattazioni della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21,30 e 21,50 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 21,80 e 22,10, l'orzo, compreso specifico, 60,63 tra 18,30 e 18,80 e la soia tra 58,20 e 58,50. Rispetto ad un anno fa, il mais è aumentato di 4,10 euro e la soia di 21 euro il quintale. Contrattazioni discrete all'ortofrutticolo di Udine, con prezzi in rialzo. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate da 1,20 euro al chilo IVA esclusa, i cavoli da 1,80 a 2,10, le zucchine da 1,40 a 1,80, i peperoni gialli e rossi italiani da 3 a 3,60, i pomodori in grappolo tra 1,80 a 2 euro, la scarola riccia tra 2,90 a 3 euro, il radicchio rosso tondo da 1,10, quello di Treviso precoce da 1,90 a 2 euro, le fragole extra italiane da 7 a 8,50 e le arance tarocco da 0,80 a 2 euro il chilo. Nel settore della pesca, per le condizioni notturne di temperature basse e causa la pandemia, il mercato soffre le contrattazioni e i prezzi sono leggermente in rialzo. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 20 a 33 euro il chilo IVA esclusa, le sogliole da 7 a 24, le mazzancolle da 25 a 35, i calamari e i calamaretti da 23 a 28, le orate da 6 a 15. Le capesante da 11 a 15, i folpi da 7 a 13 e i gamberetti da 13 a 16 euro il chilo. Domanda confermata con quotazioni stabili per il montaggio fresco, che viene quotato tra 6,05 e 6,35 euro il chilo IVA esclusa. Quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30, con marchio di qualità da 8,90 a 9,30. In forte ribasso invece il latte crudo di vacca Franco Stalla di origine Friuli Venezia Giulia, dove giovedì scorso la commissione camerale di Pordenone Udine lo ha quotato a 35 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, movimento nel settore dei foraggi, dove il fieno Mazzengo di Pianura viene quotato tra 14,50 e 15 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 17,50 e 18,50, quella pellettata viene a 23 euro il quintale, mentre le quotazioni della paglia di celare pressata oscilla fra 12,50 e 17,70 euro il quintale. E con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo il meteo per la settimana entrante. Passati i rigori di questo marzo più invernale che primaverile, quest'anno sono tornate di moda le frequenti girate notturne, nella settimana entrante un forte anticiclone di matrice africana porterà aria molto più mite a tutte le quote e tempo stabile, almeno per qualche giorno. Già domani il cielo rimarrà in prevalenza poco nuvoloso o al più variabile sulle zone interne. Ci saranno probabilmente anche banchi di nebbia notturni. Le temperature in ogni caso inizieranno una decisa risalita anche nei valori massimi. Martedì e mercoledì saranno due giornate pienamente primaverili, con temperature in rialzo nei valori minimi e più decisamente nei valori massimi, che in pianura arriveranno anche a 24 gradi. Il cielo rimarrà per lo più sereno. Giovedì qualche nube in più e un leggero calo termico annunceranno un possibile cambiamento nei giorni successivi, verso il fine settimana pasquale. Tra venerdì e domenica infatti alcuni modelli di simulazione ci dicono che sarà possibile un generale peggioramento, con piogge e calo delle temperature, favorito dalla possibile ricomparsa della bora. Il quadro però è ancora assai incerto. Vi invitiamo quindi a seguire gli aggiornamenti quotidiani a cuore di Osmer ARPA, sulla RAI regionale, su internet, sulla telefonia mobile e sui vari social media. Alla prossima! Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Te sette manne sante, ciape ogni plante. Nella settimana santa attecchisce ogni pianta. Insomma, è un tempo favorevole per i trapianti, anche se tradizione vuole che nel giorno di venerdì santo non si tocchi la terra. Coordinamento tecnico di Daniela Postu. Il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano per l'ascolto e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita